Salvadanaio. Le 12 e 16 minuti di martedì 14 giugno 2011, buongiorno da Roberta Pellegatta, eccoci a nuovo appuntamento con Salvadanaio. Abbiamo aspettato il sole per parlare di vacanze, dopo più di 2 settimane a Milano è tornato a vedersi l'azzurro del cielo e quindi rinfrancati da questo siamo pronti a pensare al mare, all'estate e ai diritti dei turisti. I vacanzieri hanno infatti un codice nuovo di zecca a disposizione che entrerà in vigore proprio il primo giorno d'estate, il 21 giugno, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, accorpando le norme in materia e introducendo novità, mira a rilanciare il settore e a tutelare ulteriormente i vacanzieri. La puntata di oggi, dunque, dedicata al nuovo codice del turismo. Risponderemo alle vostre domande al telefono al numero verde 800 24 00 24 o al solito via sms al 349 238 6666. Prima di presentare gli ospiti, sentiamo in estrema sintesi i punti principali del nuovo codice del turismo. Al turista viene riconosciuto sul piano giuridico il danno morale, oltre che quello materiale, per vacanza rovinata. Sono previste polizze assicurative per i casi di insolvenze o fallimento delle agenzie. Le famiglie disagiate avranno inoltre diritto al buono vacanze, finanziato con l'8 per 1000, che coprirà fino al 45% della tariffa. I disabili potranno godere dell'offerta turistica in piena autonomia e senza aumenti di prezzo. Si punta anche al miglioramento dello standard dell'offerta con la creazione dei distretti turistico-alberghieri a burocrazia zero, l'elaborazione di materiale informativo in almeno altre 3 lingue, l'estensione del sistema di valutazione in stelle a tutte le strutture, agriturismi, bed and breakfast, eccetera, l'istituzione di riconoscimenti ai maestri della cucina e dell'ospitalità italiana, l'occhio di riguardo a chi viaggia con gli animali. Dal punto di vista delle imprese, basterà la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, per iniziare a operare. Il codice prevede inoltre l'ampliamento della concessione del titolo di impresa turistica a ristoranti, stabilimenti balneari, parchi divertimento, organizzazione di spettacoli, eventi e congressi. Tutte godranno di agevolazioni e incentivi. Le strutture ricettive potranno erogare servizi come somministrazione di cibi e bevande, benessere e convegni anche a persone non alloggiate. Sono tantissimi i punti del nuovo codice del turismo, non riusciremo ad affrontarli tutti in quest'ora insieme, in questi 3/4 d'ora insieme, ma affronteremo i principali con i nostri ospiti, che sono l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore. Ben trovato. Buongiorno. In linea con noi c'è anche Roberto Corbella, presidente di Astoi, che è l'Associazione Tour Operator Italiani. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi. E un ben trovato a Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo Confesercenti. Buongiorno. Allora, si diceva c'è davvero molto materiale, però vorrei cominciare proprio con l'avvocato Ferrari della Casa del Consumatore per presentare i 2 punti che interessano in modo particolare le persone che viaggeranno, i vacanzieri, i turisti, a partire proprio dal primo punto che abbiamo sentito poco fa nella scheda, cioè questa introduzione nel nuovo codice del turismo del risarcimento per il danno morale da vacanza rovinata, che va adesso a sommarsi a quello già riconosciuto di danno materiale, avvocato. Sì, il danno da vacanza rovinata è un danno di cui si parlava da anni, ci sono state anche delle sentenze che avevano già riconosciuto questo danno, che però rimaneva sempre nell'alea dell'incertezza, ovviamente della valutazione che potesse essere fatta da un giudice piuttosto che da un altro circa la sua sussistenza. Per cui benvenuto questa volta l'intervento del legislatore, che ha puntualizzato e ha chiarito che il danno morale da vacanza rovinata deve essere risarcito. Tanto per dare un'idea a chi ci ascolta, che cosa significa danno da vacanza rovinata? Secondo un'elaborazione ormai abbastanza accreditata, consiste in un disagio o un'afflizione subiti dal turista viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago, di riposo, conforme alle sue aspettative. Quindi se queste aspettative non trovano oggettiva, ovviamente, rispondenza nel prodotto che viene offerto e fruito dal turista, questi ha diritto al risarcimento del danno. Ovviamente si deve trattare di inadempimenti abbastanza gravi, e si deve trattare anche di occasioni di svago e riposo che è riconosciuto dalla Costituzione come diritto del lavoratore, che siano state negativamente influenzate da una cattiva esecuzione del contratto. Difatti non si riconosce questo tipo di danno, quello morale, a chi non viaggia per vacanza, per fini di relax, ma per esempio per chi viaggia per lavoro, per affari o cose del genere. Esatto, si deve sempre trattare di occasioni di vacanza. Ci sono già stati vari casi in cui è stato riconosciuto questo danno. Posso fare qualche esempio, tanto per chiarire ancora. Volentieri, per esempio, sì. Una mancata corrispondenza qualitativa e quantitativa tra i servizi offerti in catalogo e quelli poi effettivamente resi ai turisti, ad esempio spiagge sporche, villaggio turistico pubblicizzato come struttura adatta a disabili poi non rivelata tale, mancata aria condizionata in non residence o rumori di vicino, oppure struttura alberghiera priva dei comfort descritti, dei normali servizi di pulizia e ricambio della biancheria. Anche questi, che sembrerebbero cose abbastanza minime, sono tali da poter rovinare una vacanza. E un'atmosfera. Naturalmente questo danno è tanto più grave quanto più l'occasione rovinata è irripetibile. Facciamo l'esempio del viaggio di nozze. Esattamente. Quindi il giudice considera anche questo. Proprio nel valutare si deve tener conto sia del tempo di vacanza inutilmente trascorso, perché magari una persona a causa, che so io, di un'infezione contratta è dovuta rimanere rinchiusa in stanza d'albergo per una settimana su due settimane di vacanza, sia proprio l'irrepetibilità dell'occasione perduta, e l'esempio limite è quello del viaggio di nozze, ma potrebbe essere anche un viaggio per motivi di studio di un ragazzo, sia poi l'età e le condizioni delle vittime di questo danno, per cui bambini e anziani sono sicuramente i più tutelati, come i portatori di handicap o donne in gravidanza, sia appunto la durata del disagio sofferto, e sia qua entra in gioco anche la condotta del tour operator, che cosa ha offerto. Va bene, approfondiremo poi questi punti, perché immagino che molte delle domande che arriveranno verteranno su temi come questo. Anzi, ricordo i numeri per le telefonate in diretta: 800 24 00 24 per i messaggi SMS, il 349 238 6666. Parleremo anche delle polizze online, non le polizze, no, i pacchetti di viaggio acquistati online, che ormai vengono equiparati a quelli acquistati dalle agenzie tradizionali. Appunto lo faremo con l'avvocato Ferrari, però io so che Claudio Albonetti, che è il presidente di Assoturismo Confesercenti, ci dovrà lasciare, quindi non sarà con noi per tutta la puntata, quindi vorrei dargli la parola per questi minuti che restano della prima parte, perché questo nuovo codice del turismo ha avuto un'accoglienza un po' opaca, come scrive il Sole 24 Ore, da parte degli operatori del settore, anche da parte di Assoturismo, no? Avete contestato un'esagerata liberalizzazione dell'attività turistica. Noi salutiamo il codice del turismo comunque come un tentativo di portare il turismo al centro delle attività economiche di questo paese, come è giusto che sia. Lei lo ha già evidenziato, secondo noi per esempio la scia, per esempio questo fatto che tutti possono fare praticamente tutto, questi distretti turistici a burocrazia zero, poi lì bisognerà anche capire meglio cosa significa burocrazia zero, questo fatto che un po' tutti possono fare di tutto e contemporaneamente si istituisce, se ne è parlato fino adesso, una forma di tutela per il viaggiatore, cosa peraltro giustissima, ci sembrano cose che non vanno bene insieme, perché da una parte si vuole, ripeto, giustamente tutelare il vacanziere, villeggiante, chiamiamolo così, dall'altra però non ci sembra che ci siano percorsi di riqualificazione tali per cui si possa stare tranquilli in questo senso. Cioè, secondo lei le norme che riguardano la competitività delle imprese turistiche in realtà non andranno a beneficio del consumatore finale, ovvero del turista? Guardi, perché la competitività, mi scusi, mi sento, la competitività delle imprese turistiche va ricercata prima di tutto mettendo le imprese in condizioni di poter lavorare in equilibrio. e in questo paese non c'è la possibilità che le imprese possano lavorare in equilibrio. Con la regionalizzazione delle questioni del turismo, laddove una strada divide la città turistica da una regione e da un'altra, abbiamo strutture che da una parte hanno delle regole, da un'altra parte altre regole. Mi riferisco anche a un fatto che le imprese turistiche non godono tutte delle stesse possibilità operative. Nelle zone a statuto speciale hanno opportunità completamente diverse da altre zone. Cioè la situazione non è omogenea. Allora va bene liberalizzare, nel senso che poi il mercato premierà la qualità, il mercato premierà la volontà di fare bene, eccetera. Però in questa maniera ci sembra che anche diciamo gli avventurieri, diciamo così, possano inserirsi in un settore in maniera incontrollata e fare più danno di quanto non possano invece portare. Poi ripeto, bisognerà vedere nei fatti cosa significa zone a burocrazia zero, così come bisognerà vedere nei dettagli che cosa significa tutta questa diciamo parte che all'inizio del codice parla della multiproprietà e di tutte le regole che regolano la multiproprietà. Va bene, nel frattempo voi individuate questi possibili rischi di cui ci ha parlato. La ringrazio, Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo Confesercenti. Tra l'altro ha citato la scia. E allora spieghiamo velocemente che nel nuovo codice del turismo, nella parte che riguarda proprio la competitività delle imprese turistiche, è previsto che aprire un'impresa sarà più facile e veloce, cioè per avviare o trasferire un'attività turistico ricettiva sarà sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta scia, e si applicano le disposizioni relative allo sportello unico. Sentiremo tra pochissimo anche Roberto Corbella, presidente di Astoi, che avrà modo poi di stare con noi per tutta la seconda parte e rispondere alle vostre domande in diretta. Astoi è l'associazione tour operator italiani, per cui prenotatevi all'800 24 00 24 o mandate un messaggio al 349 238 6666. A tra poco. Oggi a Salvadanaio stiamo parlando del nuovo codice del turismo, entrerà in vigore il 21 giugno prossimo, quindi tra poco, il primo giorno dell'estate, contiene norme per tutelare al meglio i viaggiatori, i turisti, i consumatori, ma anche nuove regole per gli operatori del settore. In linea con Radio 24 ci sono l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore, e Roberto Corbella, presidente di Astoi, l'Associazione Tour Operator Italiani. I messaggi arrivano al 349 238 6666, le telefonate all'800 24 00 24. Un messaggio veloce per l'avvocato Ferrari, poi passo a Roberto Corbella. Avvocato, Antonella ci scrive: una settimana alle Maldive, il bagaglio non è mai arrivato, l'ho ritrovato solo al mio ritorno, mi sono arrangiata con i parei della boutique del villaggio, per me la vacanza è stata rovinata. Danno morale, scrive? Ci può stare, sì, potrebbe richiederlo. Ne è convinto? La sento titubante. No, ci può stare. Poi bisogna vedere con chi prendersela esattamente per lo smarrimento del bagaglio, però sicuramente ne è derivato un danno alla vacanza, per cui è risarcibile. È risarcibile anche se tutto questo succede prima del 21 giugno? Ah sì, assolutamente. Va bene. Questo sì, perché la legge ha praticamente tradotto ciò che già era abbastanza affermato nei tribunali e soprattutto il tutto era stato dato il via, diciamo, da una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 2002, per cui comunque oggi abbiamo riconoscimento legislativo di ciò che già varie corti italiane stavano facendo. Quindi diciamo che sicuramente uno dei meriti del nuovo codice del turismo, intorno al quale l'abbiamo sentito, ci sono discussioni, contestazioni eccetera, uno dei meriti è sicuramente aver accorpato tutte le norme e le regole che riguardano questo settore, quindi c'è una maggiore chiarezza, un maggior ordine rispetto al passato. Certo, anche quando è stato fatto, cioè il merito di questi testi unici, se sono fatti bene, è proprio di recepire anche lo sviluppo che ha avuto il diritto vigente. È successo a suo tempo col testo unico bancario, col testo unico della finanza, sono stati recepiti degli orientamenti che ormai erano abbastanza consolidati e sono state introdotte le regole nuove. Questo è l'esempio del recepimento di un orientamento comunitario nazionale che ormai ci andava affermando, ma era sempre costruito un po' su dei cartelli di carta. Va bene. L'Associazione dei Tour Operator Italiani cosa pensa di questo nuovo testo, di questo nuovo corpo unico? Roberto Corbella. Ma allora, noi l'abbiamo definita un'occasione mancata, perché siamo d'accordo nel dire che era assolutamente opportuno un codice del turismo che chiarisse una serie di aspetti, che aggiornasse la legislazione rispetto a quelle che sono anche le nuove esigenze del mercato. Però proprio perché era un tema importante, sarebbe stato importante condividerlo con le regioni, che sono quelle che oggi hanno la delega del turismo, e con le varie associazioni di categoria. Nulla di questo è avvenuto, quindi è stato predisposto un testo che poi aveva varie lacune e varie parti addirittura non praticabili. L'unica cosa che abbiamo potuto cercare di fare è stata quella di correggerlo, comunque spingere per la correzione di questo, in maniera piuttosto faticosa attraverso le audizioni parlamentari che ci sono state. Va detto che addirittura una delle commissioni parlamentari non è riuscita nemmeno ad esprimere il suo parere, quindi poi è stato emanato il codice in assenza di questo. Cosa vi aspettavate? Secondo voi quale sarebbe stata la priorità da introdurre in un testo del genere? Intanto andavo affrontato il problema della cosiddetta governance. Il titolo quinto della Costituzione dice che la delega appunto del turismo è data alle regioni. Se non si affronta questo, se non si chiarisce quali sono i limiti della delega, che cosa può fare il centro, che cosa possono fare le regioni e come coordinare il tutto, si rischia di continuare ad andare in ordine sparso. Sì, come diceva poco. Qui è stato fatto addirittura un nuovo comitato per la promozione del turismo in Italia. È vero. Abbiamo già un Enit che dovrebbe fare la promozione, la fa all'estero, all'Enit sono stati tagliati i fondi, in questo codice viene ripetuto in più passaggi che non ci sono nuovi finanziamenti per chiarire che lo Stato non ci mette fondi, le regioni continuano ad avere la loro autonomia, le regioni si sono poste di traverso rispetto a questo codice. Quindi... Cioè, ecco, a proposito di fondi, tra poco sentiamo Enrico della provincia di Ancona, ci ha raggiunto l'824-0024, parliamo appunto di quello nazionale di garanzia, perché sappiamo che in caso di insolvenza degli operatori o di rientro forzato da paesi extracomunitari opera il Fondo Nazionale di Garanzia. Con questo codice invece, a maggior tutela del turista, si legge, accanto al tradizionale Fondo di Garanzia di cui si è riscontrata l'inadeguatezza, i turisti potranno essere assistiti da polizze assicurative che per i viaggi all'estero garantiscono il rientro immediato a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore e che assicurino assistenza anche di tipo economico. Per cui hanno introdotto questa novità, chiamiamola. Allora, Roberto Corbella. Non è una novità, perché polizze che i singoli individui possono sottoscrivere ci sono state sempre anche prima e quindi possono continuare ad essere fatto. Questa è una correzione del testo iniziale che prevedeva l'obbligatorietà per tutti gli operatori del settore di farsi una polizza contro i rischi di insolvenza o di fallimento. Polizza che è assolutamente inottenibile, perché nessuna compagnia di assicurazione farebbe alla singola impresa una polizza contro il rischio che se stessa fallisca o diventi insolvente. E quindi quando è stato recepito che questo era impossibile, è stato corretto con questa nuova formulazione. Il Fondo di Garanzia in realtà è uno proprio delle occasioni più mancate, perché noi avevamo proposto di recepire in questo testo un disegno di legge che oggi è pendente in Parlamento, che peraltro è a firma di vari deputati della maggioranza, che istituiva un nuovo fondo di garanzia, non solo molto più capiente, ma soprattutto aperto e a copertura di tutti i viaggiatori per tutte le casistiche. Mi spiego meglio. L'attuale fondo di garanzia che è stato riconfermato copre solo i viaggiatori a pacchetto e peraltro, non avendo una adeguata capienza, è assolutamente teorico, tant'è che ci sono ancora pendenti molte richieste di accesso a questo fondo che non sono state soddisfatte e non si sa quando potranno esserlo perché non ci sono i fondi. quindi la novità di quel fondo che noi proponevamo era un fondo molto più capiente. Ma non ci sono i fondi. Qualsiasi passeggero, sia che viaggiasse per turismo, sia che viaggiasse a pacchetto, sia che viaggiasse per lavoro, poteva beneficiarne sia in caso di fallimento di una compagnia aerea, di un tour operator, di un'agenzia di viaggi, o come si dice, in caso di sconsiglio emanato dalla Farnesina per situazioni di pericolo in qualsiasi parte del mondo. Mm-mm. Cosa che oggi, come dicevo, purtroppo non è possibile, quindi stiamo attenti a rassicurare i turisti e promettere state coperti a questo fondo, perché ripeto, è una copertura solo teorica quella che esiste al momento. Va bene, sentiamo Enrico dalla provincia di Ancona, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho chiamato, ho chiesto di intervenire proprio perché questo codice, secondo me, io l'ho letto, non aiuta in alcun modo né il turista né l'impresa, anzi complica. E lo dico io che, voglio dire, tra l'altro non vergogno di dirlo, simpatizzo per l'area che attualmente governa, però il problema vero sono le piccole e medie imprese turistiche, soprattutto mi rivolgo alla mia regione, in realtà la quale conosco, la regione marchigiana, la costa adriatica, le quali sono in una condizione veramente, come tra l'altro in tutta Italia, sono arrivate ad una pressione fiscale, ad un controllo così accurato, così appurato. Io le cito solamente alcuni dati: la scorsa stagione estiva le strutture ricettive nella mia città, che è Senigallia, hanno ricevuto la media di 3 ispezioni ispettive in 3 mesi d'apertura, con una burocrazia che schiaccia le strutture stesse, le quali devono sopperire in 1000 codici, 1000 burocrazie, le quali non le consentono di andare avanti, di potersi magari in qualche modo ammodernare. Tutta la piccola impresa italiana denuncia questo, no? Tutta la piccola impresa italiana denuncia questo, però dobbiamo metterci anche, dobbiamo essere coscienti, consapevoli di una cosa, le persone che sono rimaste, alcune delle poche persone che sono rimaste, che fanno entrare gettito fiscale fresco all'interno delle casse dell'erario, soldi veri, non virtuali, non passaggi tra capitoli di Stato, ma soldi veri, sono le piccole e medie imprese. Una volta che confermiamo e approviamo questo punto fisso, da qui possiamo partire per un nuovo procedimento, non burocratizzando ancora di più, perché questa è una burocratizzazione ancora maggiore per le piccole e medie imprese. Questa è la mia piccola opinione. La ringrazio per la sua testimonianza e il suo parere. Tra poco anche Marco da Forlì e Andrea da Milano. Prima un messaggio, un'ascoltatrice che non si firma dice: febbraio 2010 a Roatan, io e mia figlia, la mia amica con la figlia, siamo tornate con la scabbia per mancanza di pulizia, altro che Moschito, se vale la pena tentare la richiesta di un risarcimento con un avvocato. E Roatan è un'isola tropicale del Mar dei Caraibi a largo delle coste dell'Honduras. Io non ho avuto la fortuna di andarci, però la nostra assistente Gaia ce l'ha individuata geograficamente. Avvocato, stiamo parlando del febbraio 2010. Sì. Ha sentito il messaggio che ho letto? Sì, assolutamente. Ma c'è stato proprio un caso risalente ormai a qualche anno fa, però che viene sempre indicato come uno dei più importanti, proprio che hanno determinato questa giurisprudenza sul danno da vacanza rovinata, che riguardava proprio la contrazione di infezioni nel corso della vacanza, per cui sicuramente può essere fatta questa richiesta. Se la signora vuole avere un consiglio, magari può anche rivolgersi, non dico alla Casa del Consumatore, ma a una qualsiasi associazione di consumatori, e chiedere un po' di valutare la sua situazione, perché potrebbe avere diritto a un risarcimento. Anche dopo tutto questo tempo? Sì, certo. Va bene, c'è la possibilità, c'è questa apertura. Una di 5 anni o di 10 anni addirittura, se si tratta di rapporto contrattuale. Va bene. Bentornati a Salvadanaio, Marco da Forlì, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? È in linea, la sentiamo forte e chiaro. Volevo sapere come sono tutelati i consumatori che chiamano, non so, online. Chiamando, io ho visto una pubblicità di un giornale dove ci sono dei turisti. Non so come dire. Ha visto su un giornale un'inserzione, un annuncio? Inserzione turistica, bravo. Sì? Inserzioni turistiche, mi chiedono però il mio codice fiscale, il mio IBAN, poi mi chiedono di versare direttamente in banca verso il loro codice, e poi devo spedire. Cioè, sul giornale c'è un'offerta appetibile, lei ha chiamato, immagino, le hanno chiesto tutte queste cose? Sì. Tra tramite fax devo io spedire una copia alla loro agenzia, ma è solo telematica, è solo per telefono, non so, che tutela ho? Ma scusi, quello l'ha fatto questo. Poi lei, cioè, ha spedito soldi dati oppure una sua curiosità? Ha aspettato, saggiamente. Perché? Chiedono tutti questi dati, a me mi sembra un po' troppo, non capite come mai. La ringrazio, Marco. Avvocato Ferrari. Allora, prima di rispondere volevo riprendere un attimino la domanda di prima e puntualizzare che adesso dal 21, quando entra in vigore il nuovo codice, i termini di prescrizione si riducono a un anno o tre anni a seconda dei casi, per cui bisogna stare attenti a non far passare troppo tempo dal caso della vacanza rovinata. Quello è un caso precedente, quindi valgono le regole di prima, però d'ora in poi prestare attenzione. Per quanto riguarda invece questa questione, ora non si può dire in assoluto che sia negativo quello che gli richiedono, probabilmente gli richiedevano dei dati necessari per avviare la pratica, per pagare un fondo iniziale o per pagare il pacchetto acquistato. Il turismo è uno dei settori che ha avuto il maggior sviluppo nella contrattazione online ed è probabilmente uno dei maggiori motori di sviluppo del commercio online, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto, lo sappiamo tutti, dei voli. Quindi ci sono tanti tour operator. Sì, in questo caso era proprio un collegamento solo telefonico. Questo è un collegamento soltanto. Beh, diciamo che non ha un. Il pacchetto turistico ha dei requisiti di forma, per cui sicuramente questa persona deve ricevere tutta l'informativa, tutto il contratto, sottoscriverlo e trasmetterlo, cioè non si può concludere così telefonicamente un contratto, soprattutto se riguarda l'acquisto di un pacchetto turistico. Se riguardava invece l'acquisto di un singolo evento, che poteva essere, che so io, la gita di un giorno o qualche cosa del genere, allora è anche possibile concluderlo telefonicamente. Va bene, continuiamo con le nostre telefonate. Andiamo a Milano da Andrea, 800 24 00 24. Pronto, Andrea? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io mi sono recato 2 settimane fa a Praga per una manifestazione sportiva e mi hanno consegnato il sacco con l'attrezzatura sportiva 2 giorni dopo. Io per poter, come dire, partecipare a questa manifestazione sportiva ho dovuto acquistare in luogo parte dell'attrezzatura con un costo di circa 250-270 euro al cambio. La manifestazione era a Praga. Io ho chiamato la compagnia di linea della Czech Airline e mi ha detto che mi avrebbe sicuramente risarcito i 100 euro per le prime necessità, come le chiamano loro, al che io ho obiettato che in realtà la spesa era stata molto maggiore e ha detto che avrebbero valutato il singolo caso. Io volevo chiedere, nel caso mi fosse riconosciuto solo i 100 euro, cosa faccio? Posso rivalermi sulla compagnia? Posso chiedere qualcosa di più oltre al danno materiale, in quanto avendo giocato con attrezzatura sportiva nuova che non era la mia, comunque ho avuto anche un disagio, diciamo, fisico, perché comunque il suo viaggio aveva una finalità ben precisa che dipendeva da ciò che era in quel bagaglio, esatto, che è andato perso. Esatto, perché comunque la manifestazione era stata organizzata e programmata con dei turni, io ho dovuto rispettare quei turni, quindi la scelta era o saltare i miei turni assegnati per questa manifestazione sportiva oppure sì. Lei aveva acquistato solo il volo aereo per quel viaggio? Io avevo acquistato o era un pacchetto? Aereo, sì. No, era un volo aereo e basta. Va bene, avvocato Ferrari. Dunque, in questo caso esistono dei limiti di responsabilità che sono fissati dal regolamento europeo che consentono al vettore aereo di limitare la propria responsabilità. Ora non so nel caso di specie poi se i 100 euro siano adeguati oppure no, mi pare proprio di no. Però vero è che si incontrano difficoltà ad avere un rimborso integrale di quello che è il danno che si è subito a causa dello smarrimento di un bagaglio. Roberto Corbella, se tutto questo fosse successo al cliente di un tour operator... Allora, vorrei approfittare per dire una cosa anche Prego. Rispetto alle telefonate di prima. Noi da tempo collaboriamo con diverse associazioni di consumatori perché pensiamo che sia importante, soprattutto in questo momento dell'anno, lavorare in termini di prevenzione. Quindi ci siamo addirittura costruiti assieme a loro una specie di decalogo che dice intanto leggete con cura tutto ciò che è compreso e ciò che non è compreso. Il signore di prima che dice ho visto la cosa online, se ho capito bene, è bene che cerchi di capire chi è il suo interlocutore, vedere se è un'azienda che è conosciuta, che ha anche una presenza sul territorio. Se è un'azienda estera la cosa è un po' più complicata, perché in caso di servizio dovrebbe poi confrontarsi con una causa internazionale, eccetera. Qui c'è un fatto nuovo col codice del turismo, che anche le agenzie online sono tenute, anche vendendo i singoli componenti separatamente, alle norme che regolano, che tutelano coloro che acquistano un pacchetto. Quindi questo è un passo avanti per chi acquista questo tipo di servizi. Detto questo, l'altra cosa importante, segnalare subito sul posto eventuali disservizi, e quasi sempre si riescono a sanare. Laddove ciò non fosse possibile o non dovesse succedere, tempestivamente, appena rientrati, normalmente entro 10 giorni, segnalare il problema, chiedere il tutto, e poi come ultima estrema razza, ne abbiamo fatto con queste associazioni di consumatori addirittura un'operazione di gestione di una conciliazione, per cui il consumatore nomina una delle associazioni di consumatori come suo rappresentante, che nomina un conciliatore, lo stesso fa il tour operator, e si cerca in tempi brevi di arrivare ad una soluzione bonaria. Quindi ci sono questi 10 giorni che sono importanti, 10 giorni lavorativi? Questo sì, è importante da tanti punti di vista, anche perché poi se si devono acquisire degli elementi per poter vedere la fondatezza del reclamo, bisogna poter avere una tempestività per intervenire. Se la cosa è fatta con un ampio margine di tempo dopo, potrebbe non essere più l'operatore che lavora con quel corrispondente, potrebbe non essere più operativa quella struttura, potrebbero essere cambiate le condizioni generali, e quindi andare a riscontrare certe cose diventa oggettivamente difficile. Naturalmente. Io consiglio i siti internet per approfondire e avere informazioni. Quello dell'associazione Tour Operator Italiani è www.astoi.it, e ringrazio il suo presidente Roberto Corbella per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie anche voi e buona vacanza. Grazie all'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore. Il sito è www.casalelconsumatore.it, e so che ci sarà anche un servizio gratuito per gli iPhone tra poco, con tutti, appunto, con il decalogo per il buon viaggio, il viaggio senza sorprese, vero? Sì, assolutamente, stiamo realizzando un'applicazione che sarà pronta all'inizio di luglio, liberamente scaricabile su iPhone e iPad, proprio per conoscere tutti i propri diritti, sapere come tutelarsi, e poi saranno reperibili attraverso questa applicazione anche le strutture alberghiere turistiche certificate secondo lo standard Ecolabel, rispettose dell'ambiente. Va bene, grazie avvocato anche a lei, davvero tutto. Ringrazio Gaio Romani in redazione, Pietro Lacorte in regia. Con Salvadonaio ci sentiamo domani, sempre dopo mezzogiorno. Adesso GR24, una buona giornata da Roberta Pellegatta.